così. No, negativo. Ciao, buongiorno Giulio. Ah, ciao Fra, no, perché avevo la radio accesa e non capivo che era troppo alta la radio, capito? Capo. Beh, stavo guardando su quell'altro canale, ma non c'è mai nessuno. Lo so, quello è il suo appuntamento. Infatti, ho visto che ogni giorno lo accendo, però non niente di persone, attive. Una sera ho trovato soltanto Antonello e basta. Sì, lui va, di tanto in tanto ci va lui lì, sì. No, ma quello è solo per l'emergenza o fra, per cui va bene così. Se non è necessario, allora rimaniamo qua, se no quello è solo per l'emergenza. Quello è bello anche quando sei fuori, magari aspettando in macchina. Ah, anche, certo, anche quello. Certamente sì. Come CB, E poi nessuno ti mette la portante lì. Oh, e chi si può permettere? Assolutamente no. Infatti. Comunque ieri sono andato e non me ne hanno fatto. Ma te l'hanno fatto? E come mai? Hanno detto che ricevono solo esclusivamente per appuntamento. Che te l'ha detto? Quel deficiente qualcosino, quella specie di coso, quello che è lì, che mette in ordine le persone, quel tipo giovane, un ragazzo giovane, che fosse un dottorino di quelle delle prime armi, qualcosino. No. Direttamente la guardia non ci hanno fatto entrare. Ah, vuol dire adesso hanno dato ordine così, perché sino a fatti ieri c'è andata mia figlia anche senza l'appuntamento, un video l'appuntamento ce l'aveva per Alghero. Poi è andata e ha detto, ma mi sembra giusto a voi che io abito qui a 200 metri di distanza da questo centro e devo andare al Alghero per fare il vaccino. E allora gliel'hanno fatto lì. Sì, però hanno messo questo sito, hanno messo che si può prendere l'appuntamento velocemente. E infatti ieri sera abbiamo fatto questo sito e c'è un appuntamento al giorno 5. Ah, ho capito, sì. E vabbè, quello l'avevo fatto anch'io, quello lì, la piattaforma delle poste, quello lì hai preso. No, non lo so se è piattaforma delle poste, comunque ho già l'appuntamento, tutto già confermato da loro, tutto quanto. E il giorno 5 mi devo presentare, alle 4:20. Sì, no, io il 26, mercoledì prossimo devo andare io, perché l'avevo fatto sempre con la piattaforma delle poste, sì, con quel sistema delle poste, e mi avevano dato l'appuntamento, o meglio, l'avevo preso io, l'avevo deciso io per il giorno 26, per cui anche l'orario ho deciso. Sì, anche noi, c'era da decidere e abbiamo deciso noi. Quando andare, quando è a fior andare, o di mattina o di sera. Sì, infatti io ho scelto quel giorno e quella data, per cui va bene così. Adesso aspettiamo, mercoledì ci vado e vediamo un po' come si presenta la situazione. E come si presenta? No, ho visto che fanno in fretta, sono veloci. Diciamo che è considerato più o meno 10 minuti a persona, anche di meno. Ho visto che la gente chiamava quello lì. Infatti a me mi ha detto, io gli ho detto, ma io ho preso l'appuntamento, però non mi hanno mai chiamato, ma deve prendere l'appuntamento, deve avere l'appuntamento per entrare qua, adesso. Però non mi ha detto né da oggi, né da lì, da là, niente da fare. Dice, intanto, dice, non la chiamo. E se non c'è l'appuntamento non lo faccio entrare, perché non vogliono che entri nessuno. Perché dice che ci avevano le cose contate, non so, se le avanza, magari ha detto più tardi, se rimane qua, la picca dobbiamo mangiare la gira, rimane. Non di certo, già lo guido, se magari si avanzavano, se qualcuno non si presentava e avanzavano i vaccini, allora magari l'avrebbero per non sprecarli, le avrebbero fatti così alle altre persone, anche senza l'appuntamento. Sarà pure così. No, io addirittura appuntamenti ne avevo già un altro, quello della regione, ma quelli non ti chiamano mai, quelli ce l'ho già da un bel po' di tempo, non ti chiamano mai lì, ui. E allora poi successivamente avevo preso l'appuntamento lì con questo, con questa piattaforma postale. Ecco. No, noi l'avevamo fatta tramite farmacia, io e mia moglie, tramite farmacia, però non ci hanno mai chiamato, e poi ti hai detto, ma hai tu che non ci chiamano in più, hai tu che bisogna attrezzarsi. Infatti, te lo sto dicendo, anch'io ce l'ho sempre, ce l'ho anche nella conferma nel telefonino, che il mio numero di discorso di tessera sanitaria, eccetera, eccetera, è stato confermato, e devo essere in attesa di richiamo, ma non ti chiamano mai, e allora ho pensato di fare questa e adesso ci vado direttamente per l'appuntamento, anche perché magari quello regionale chissà ma che dove mi avrebbero mandato, quando io sono vicinissimo qui alla promocamera, abitando ai punti. Infatti l'ho già, va bene, infatti mi ho scaricato anche il muro, l'ho già compilato. Infatti anche quello, così ce l'hai già pronto, ce l'hai già pronto, quando vai non fai altro che consegnarli, e così ti danno il numero e poi ti chiameranno. E infatti, io ripresento questo, poi quello che non sono riuscito a compilare me lo diranno loro, per me non sono da compilare questo, però tutto quello che sono riuscito l'ho compilato, poi vediamo. Sì, e beh certo, quello poi te lo spiegano sicuramente. Allora devi solamente scrivere le patologie che hai, naturalmente, queste cose così, nome e cognome, ovvio, questo è normale. Portare la tessera sanitaria, ricordati di portare la tessera sanitaria, non te la dimenticare, perché se no non ti mandano indietro proprio per quei motivi lì. Ah, quella già non me la dimentico mai, ce l'ho sempre appresso nel portafoglio. Appunto, anche quella di tua moglie, chiaramente, quando se vai insieme a lei, ricordatevelo, perché se no fate un viaggio inutile. Lo so, quello già, ormai la tessera sanitaria è diventata un documento permanente. Sì, infatti deve essere sempre accompagnata dal titolare, è ovvio. È come la patente della macchina, diciamo, dai, oppure la carta d'identità, uguale. Sono cose che uno dovrebbe portare sempre con sé, giustamente così. No, io ce l'ho sempre nel borsello, intanto quando esco prendo il borsello dove ci sono anche il flaconcino delle accidenti, del gel per disinfettare, eccetera eccetera, poi c'è tutto quanto lì, libretto di macchina, libretto di patente, tutto c'è, tutto lì io dentro col borsello, io quando esco con quello, per cui anche perché esco con la macchina e perciò sono costretto anche ad averlo, perché se non si mi ferma la polizia senza i documenti della macchina come faccio? Quello è logico. Dati delle persone. Presentazione legale. Senza seguro di vita. Dati della rappresentazione legale. E cosa vuol dire? No, ma penso che quelli non li devi compilare. Penso proprio di no. Quella voce lì non credo che va compilata a te. Boh. Capito? Perché no. Penso che non ti appartenga quella voce lì. Non appartiene, no, non ce l'hai, non mica devo unire un legale, devo unire. E via. No, nome e cognome, codice fiscale, telefono, quello lì sì. Però il resto no. Certo che sì, è così, infatti è così. Codice fiscale, anche le patologie che hai avuto, perché loro in base a quello ti fanno il tipo di vaccino, per cui devi scrivere quel problema che uno può avere, perché in base a quello fanno poi il vaccino adeguato. Ah, c'è scritto specificare le medicine che prendi, queste cose qua, io gli ho scritto tutte le medicine che prendo. Poi lo sanno cosa aderiscono quello. Sì, quello sì, a parte quello, ma no, ma intanto te lo chiedono anche, te lo chiedono, quando sei lì te lo chiedono direttamente, a parte il fatto che l'hai scritto già macchine che prendi, ma poi dopo già te lo chiedono loro, e dunque glielo spieghi a voce? Perché lo ho scritto perché non me lo ricordo a voce pure. No, ti chiedono che problemi hai, che malattie uno può avere, non è che ti chiedono il tipo di medicina, ti chiedono a cosa sei allergico, se sei allergico a qualche medicina, a qualche pastiglia, se uno è diabetico ti chiedono queste cose qua, no, ti chiedono, non è che ti chiedono la medicina, no, assolutamente, quello ce l'hai scritto e basta, e poi lo leggono. Vabbè, diabetico, non sono diabetico, prendo la pastiglia solo per la glicemia, perché c'è una glicemia alta, e basta, ma non è che sono diabetico, non mica faccio l'insulina. No, sto dicendo io, no, chiedo alle persone così, se uno ha problemi, se uno ha diabete, se ha la pressione alta, se ha, insomma, qualsiasi tipo di patologia che uno può avere o che ha avuto in passato, chiedono questo, perché poi si regolano in base a quello che uno ha o ha avuto, le fanno la puntura, capito? Vabbè, qua c'è cardiosterina, pressione alta, e la pastiglia per febbo, sono qua giù, ero con il cerò. Appunto, sì, che tutte queste cose te le chiedono, tu gliele dici e loro ti fanno sicuramente il Pfizer. Ti fanno il Pfizer sicuramente, guarda, come il tipo di vaccino. Intanto, in confronto alla cosa che c'è, ti fanno il vaccino, così è. E certo che sì, perché possono essere contrari a quello che hai, ti può fare male, invece in base a quello che tu hai. Ad esempio, io sono allergico alla tachipirina, praticamente, lo chiamano paracetamolo, io sono allergico a quello, a me lo credo, però diciamo che una volta mi ha fatto uscire dello sfogo, mi ha fatto uscire questa tachipirina, e dunque lo segnalo, come l'ho sempre segnalato, quando tutte le volte che sono andato a fare le visite e dal dottore o all'ospedale, capito? Sì. Ma che ti vuole entrare? Ma non c'è. Voleva entrare sopra di te, ma vabbè. Se vuole entrare già siamo qua, non c'è problema. Avanti, chi è che vuole entrare? Non risponde nessuno, sarà stata propagazione, può darsi. Non è dire. Possibile. Vabbè, allora no. Dai, comunque. Se vuole entrare siamo qua, non c'è problema. Bene, sì, ma è così, Fra. Per cui, è giusto che ti chiedano queste cose, no? Se no, in base, come ti ho detto, in base a quello che uno ha o ha avuto, le fanno un tipo di puntura. Andà bene. Vabbè, speriamo che finisca questa storia. Speriamo bene. Chissà se ce la facciamo, almeno entro quest'anno, a eliminarlo proprio, visto e considerato che ormai la gente, la maggior parte delle persone è vaccinata, almeno il 30% delle persone, 30 milioni di vaccini hanno fatto già, il che significa siamo intorno al 50% vaccinati, perché se noi siamo 60 milioni in Italia, hanno fatto 30 milioni di vaccini, grosso modo dovremmo essere così, un 50% di persone già vaccinate, suppongo che sia così, a meno che non è considerato anche quelli che hanno fatto la seconda puntura, non lo so, i dati che danno alle volte non sono nemmeno molto chiari. Ma io, per me hanno sbagliato facendo questo sistema qua, sono sbagliato, che a quest'ora sarebbero stati tutti vaccinati, dandoli ai medici di base, e ogni medico di base ci avrebbe fatto i suoi, ci avrebbe fatto e sarebbe stata già andata. Sì, anch'io penso così, che sarebbe stato anche più giusto, anche perché il medico di base conosce la situazione dei suoi pazienti, per cui avrebbe fatto la puntura giusta, quella che uno può sopportare, che può avere. Invece no, hanno fatto una confusione tremenda, per carità, con questo fatto dell'età, poi hanno cominciato dall'età dei 90 anni, poi da, passavano direttamente magari a 60 o addirittura sono arrivati anche ai ragazzi di 12 anni, ma cosa? Hanno fatto una confusione tremenda, hanno fatto. E allora? Ma il 54 addirittura non ne ha parlato niente, non ne ha parlato. Hai parlato del 51 e del 54 non ne hai parlato. Sì, perché ognuno poi ha fatto le cose di testa sua, in ogni comune hanno fatto e hanno vaccinato persone di varie età, mentre invece avrebbe dovuto imporsi il governo. Oggi bisogna fare per dire tutti gli ottantenni, e boom, e basta, senza esclusione di qualsiasi altra forma di vaccinazione. No, invece no, ha arrivato un casino del diavolo, anche perché poi è uscita la voce che, sai, soprattutto i medici si hanno fatto i vaccini anche a tutti i loro parenti, eccetera, eccetera. Dai, poi bisogna vedere quanto c'è di vero in questo. Però la voce è uscita e non c'è escluso. Che accendo il fuoco. Ok, accendi. Luca, tu sei? Giulio, sto provando un'antenna. Ciao Luca. Va benissimo, va. Alla grande, non c'è problema. E allora, costruendo, sai? Dimmi una mezz'onda. Una mezz'onda in cavo, la sto diciamo terminando, dai. KK, ho messo un attimino a portante per vedere com'era. Ok. Va bene. Già sto scendendo bene, non c'è problema. Segnale abbastanza alto, per cui, cioè il segnale tuo che ho conosciuto, e va bene così. Perché me le chiedono sempre queste antenne più corte per via del... guarda, e allora mi accontentiamo. Certo, perché magari uno vuole mettere un'antenna più corta proprio perché è impossibilitato o installare un'antenna più lunga o perché non la vuole fare troppo o mettere troppo un'antenna troppo in evidenza, e che lo sa, e ognuno ha le sue ragioni per cui è giusto così, ma a te questo non ti comporta niente, intanto hai lo strumento e per cui va bene lo stesso. Sì, infatti. Aspetta un attimo, Giulio, che collego tutte e due le antenne al commutatore, così mi dai poi la differenza. Ok, d'accordo, Luca, non credo che sia tanta, visto e considerato intanto la distanza tra me e te, e poi anche in città dovrebbe più o meno, non dico essere proprio precise, ma almeno in qualche maniera eguagliarsi, dai. Sì, ci sono io, c'è Luca e c'è anche Franco un attimo che sta rientrando fra un po'. Avanti. Ciao Giulio, no, ho appena acceso, c'è Franco? Ciao, sì, Franco di Sorso. Ciao Fra, aggiusto un pochino la radio perché non è quella perfetta. Sì, c'è Luca che sta cambiando l'antenna perché ha bisogno di un controllo. Avanti ancora, Fra. Ma non sono Franco io. Ma non si capisce la voce. Ah, Tino sì. No, non mi fosse disastro. Ma vabbè, ma qualche profumata è. La radio non è bella, non è la chiara la radio. Aggiusta un po' la radio, dai, abbassa forse un po', non lo so. Qualcosa, io non ti sentivo bene. Adesso ho capito che sei tu, Tino, avanti. Aspetta, ha ragione. Allora, Guarda adesso, va meglio? Sì, adesso è migliorato, però non è ancora la tua bella modulazione. Non è ancora quella, adesso ti passo Franco, avanti Franco. E qua è come se sei seduto vicino a me. 9-10. È radio amplificata a bomba. No, perché sicuramente pulendo. Aspetta che passiamo. Guarda se è migliorato ora. No, da me non ha migliorato niente. Guarda, prova a battarla un altro po'. Oh, oh, oh, oh. casino. Aspetta, 1, 2, 3, prova. Guarda un po', guarda, dovrebbe andare bene, ora. Adesso è perfetta, io ti ascolto benissimo. Avanti Giulio. Sì, adesso va bene. Sì, prima era troppo alta e usciva a livello di strappo. Va bene così, va bene, dai. Va bene così. Aspetta che chiamo Luca che deve ha bisogno di un controllo. Luca, sì, se vuoi ci possiamo anche decanarmi, Luca, così non disturbiamo a Tino e a Franco per il controllo dell'antenna. Luca, sì. Per carità, va bene. Aspetta un attimino. Oh, guarda Fra, si è migliorato. Si è allontanato Franco sicuramente. Adesso va bene, la radio è perfetta. Segnale c'è per lo stesso. No, era più che altro come ho mosso la radio. Ho toccato il michilino, ma sono accorto. Infatti era troppo. Sì, ma adesso è perfetta, va benissimo così. La tua radio di sempre, va. Scusate un attimo che mi sposto un attimino, Tino, mi sposto un attimino, Franco, mi sposto, ritorno fra un po', dai, mi sposto un attimino, ok? Va bene Giulio, siamo qua, c'è problema. Ehi, andare. Cosa stai usando adesso qui? Il solito, Fra, il solito, solo che sfocando il mobiletto che ho, adesso ho urtato il Michigin, che diciamo è in basso a destra, è il primo pomello che magari con la mano l'ho aumentato. No, dovrebbe andare bene comunque. Sì, adesso va benissimo, ehi, caspita. Sono tutte le radio come la tua. Aspetta un attimino, faccio una prova giusto per... Alziamo, sarà appena ancora. Guarda se va... Perché mi sa che era così. E ancora è buona. Troppo alta, No, alta è alta, però è bella chiara, si sente bella proprio per potente, no? Però non distorce niente, va benissimo. No, perché ti ripeto, ce l'avevo a mezzogiorno, invece dovrebbe essere verso le 10, dai, il Michelin, la manetta. Se a manetta è un casino, perché a manetta non si tiene mai. Sì, ma infatti ho detto, ma che strano, anche perché non può senza utilizzarla, quindi. Il Michelin va bene a manetta nel 48, in quelle baracchini lì, ma non nella radio diversa. Certo. Vabbè, combinando Fra, tutto a posto? Tutto a posto, va bene. Dai, ci hanno liberato, almeno siamo usciti un po'. Io sto facendo il fuoco, ho fatto il fuoco adesso, acceso, tanto per fare qualcosa. Anche io mi devo attingere a fare, perché vabbè ancora è presto, ma tra una mezz'oretta buona lo metto a fare. Oggi è giornata di Zinino, quindi. No, io tutt'altra roba. Pancette, via e bistecca. Diciamo che qua io non è che lo faccio spesso fuoco, lo faccio una volta ogni quando capita che ti viene voglia, se no c'è una griglia elettrica che arrostisce quante quella là. Sì, non lo metto in dubbio, però anche io ho la possibilità di fare la griglia oppure la piastra, ma la preferisco più accendere il fuoco e è tutt'altro sapore, dai. Sì, in effetti è già vero, è tutto un altro sapore. E vabbè, una volta ogni tanto me lo faccio, anche se c'ho il barbecue che sta andando, sta scendendo a pizzi. Però adesso lo devo aggiustare, devono venire a aggiustarmelo tutto e me lo fanno come si deve. Mi metto i tiranti ai fianchi in modo che non si spulsi. Ma qual è? In cemento? Sì, tutto in cemento. Sono ritornato, Ehi, Giulio. Sì, magari mai ne hai fatto andare troppo, magari ha crepato le pareti. Un po' le ha tutte crepate. Infatti adesso il curatore mi ha detto, dice, basta mettergli dei ganci, dei ferri agli angoli, non va da nessuna parte, e poi di nuovo entro al catto e è finito. Sì, va bene, vuole rinforzato, vai. Va bene, la riprendi Giulio. Ok, sì, no, io ce l'ho quello tipo portatile, dai, quello che vendono nei vari negozi, no? Sì, in acciaio inossidabile, e lo metto nel terrazzo, lo metto, ma io non ho bisogno di regare perché intanto il terrazzo è ci sono i muri da una parte all'altra, per cui è protetto anche dal vento, non c'è problema. E quando ho voglia di fare la rossa, attacco quello col suo carbone solito e ciccia e facciamo l'arrosto sì. E ci vuole ogni tanto, andare cosa vuoi fare? Vorrei vedere, non per niente siamo sardi, no? E dunque già lo sai che il sardo per la graticola è portato abbastanza. Avanti Franco. Capo. Ah, io ne ho uno piccolino, ci sta il maialetto, bene. Diciamo che il maialetto nel mio non ci sta, però già ce ne sta abbastanza, dai. Per la mia famiglia e anche per quando ci sono invitati, che vengono i miei fratelli, le mie sorelle, eccetera. Già c'è lo stesso, non è tanto, già è sufficiente, diciamo, dai. È abbastanza qualcosa anche, come si chiama, quella fare che gira, no? Il gira arrosto, per cui tutto va bene. Vai Tino. No, io oggi a base di semino, quindi il gira arrosto l'abbiamo parcheggiato per oggi, ne approfittiamo là, in giardino, la famiglia. Certo, no, ma oggi nemmeno io lo devo accendere, assolutamente no, anche perché mia moglie sta preparando del merluzzo, sta preparando, per cui andare, poi non lo so, farà ravioli, che ne so, boh. Comunque, glielo ho detto ieri, guarda che sono a dieta, e lei mi ha detto, già si vede se siete a dieta, così mi ha risposto, boh, no, non mi crede mai, quando le dico che sono a dieta, non mi crede mai, Tino. Ma che tu non credo che fai qualcosa per farglielo credere. Cosa devo fare? Se lei deve cucinare i piatti, io li devo anche consumare, no? La colpa è sua, non è mia, no? Che affettiva, vuoi vedere? Secondo te non ho ragione io. è vero. Va bene, signori, dai. Sono entrato a salutare. Da che anche io mi attingo a fare il carbone. Ok, d'accordo, ti dai. Grazie, allora, per essere entrato a salutare. A me personalmente mi ha fatto piacere, suppongo anche a Franco. Ti mando a Franco per salutarti. Ciao, a dopo eventualmente, dai, se coincide oppure stasera. Bene. Avanti Franco. Capo, ciao Tino, vai. Capo, buona rossita anche a te. Ci siamo. Via, a più tardi, dai. Buon pranzo a tutti. Ciao. Ciao di nuovo Tino, ciao. Sì, è così, Cristina, io infatti glielo ho detto a mia moglie, guarda che sono a dieta, come sempre, così mi ha risposto, ma non mi credono, sì, è un incredulo proprio, e cosa devo dire? E per forza non ti credi, tutto questi buoni di magne. Ah no, ma cosa mangio tutto che buono? Quello che cucinerei mangio io, non è che mi mangio buono ghiaccio, qualche volta sì, ma qualche volta no. E il piatto mica è combustibile. Vabbè, si fa per dire, no? vabbè, ma cosa vuoi fare dalla vita? Tanto cosa ne hai dalla vita? No, ma è come di che qualche chilo in più già l'ho recuperato e a buia, almeno 5 chili in più mi sono guadagnato in questo periodo del Covid, almeno prima uscivo se non altro tutte le mattine mancabilmente, la solita passeggiata, il solito cappuccino al bar, e poi invece da un anno e mezzo a questa parte, recluso in galera in casa. Aspetta, ci stiamo andando una cosa. Ok, d'accordo, fra. Io sono uscito a Batiglia, mi sono fatto una passeggiata. se dall'alto e soprattutto l'orizzonte che si vede molto bene. Bene, bene, bene, ok, dai. Oh cavolo che non ci riesco con questo, vero? Cos'hai? Il telefonino nuovo hai? Non hai ancora studiato bene? No, ne ho due, ho due numeri, no. Se stiamo andando dall'altro numero, il numero nuovo che ci avevo, perciò c'ho un telefonino a parte per internet e queste cose, però c'ho delle fotografie dentro, un iPhone, c'ho, no? E non riesco a farlo andare, a entrare nella foto. Sì, capito, adesso si risento. Sì, beh certo, sì, e anch'io ne ho due numeri. Uno inizia con 388 e l'altro inizia con 348. Per cui va bene così. Va bene, comunque. Riprovaci, tenta di nuovo di riuscirci e ci riuscirai sicuramente. Certo che ci devo riuscire, me lo sono dimenticato. Perché non lo uso più questo tutti i giorni, hai capito? Ok. Perché succede così, anch'io non è, alle volte certi movimenti che devo fare col telefonino non me ne ricordo, allora chiamo l'intervento di mia figlia che lì già si ricorda tutto, è abbastanza preparata, ma io tante volte non mi ricordo, anche perché lei magari capace che usa più volte tutte questi modi di fare telefonino, mentre io no, cosa vuoi che mi ti dici? Io uso WhatsApp, uso il telefono per telefonare e basta, niente di più. Forse qualche volta magari leggo la Nuova Sardegna, quando non ho voglia di accendere il computer, allora accendo il telefonino oppure il tablet e così lo vedo lo stesso, perché intanto sono sempre le stesse notizie. Non ci riesco da qua, esci a vedere se ce l'ho nell'altro, ma è difficile. Vabbè, tu fai così, allora fai come faccio io alle volte, accendi quello che vuoi mandare con l'altro telefonino, fai la fotografia e me lo mandi con l'altro, quello solito che usi, molto ci vuole. Ma sai che non ci avevo pensato. Io faccio così, anzi quando ho qualche cosa per dire, non so se vedo qualcosa, scatto la fotografia nel telefonino stesso e me lo passo nella galleria e poi dalla galleria posso condividere con il suo WhatsApp alle persone interessate, capito? Te l'ho mandato, te lo sta caricando, te lo sta adesso, già caricato, dovrebbe essere già arrivato. Sì, è arrivato adesso l'annuncio, adesso lo sto aprendo e vediamo un po' di cosa si tratta. Olaro? Sì, Nicola, tu sì? Olaro, se sei in ascolto, rispondi. Sì, ti rispondo, ma tu non mi senti? Avanti, chi mi chiama? È uno basso basso, lo sento basso basso basso, non so chi sia. Probabile che sia lui, Nicola, come stai dicendo tu. No, non lo so, perché è molto basso anche qui da me, ma io non ho capito la sua voce, non la conosco questa voce. Vabbè, dai, ho visto il tuo attrezzo, Fra, caspita, lì ci sta un bue, non un porcetto, un bue ci sta lì. È grande, l'ho fatto grande. Questa è in terrazza, non è in terra, è in terrazza proprio. Ha voglia spazio, ce n'è, sarà grande, non c'è problema. Vediamo chi è che mi stava chiamando. Avanti l'amico che mi stava chiamando, io ti ascolto bene anche, ma se tu non mi rispondi, boh, non risponde, vabbè, pazienza, non fa niente. Sì, Fra, è così, ha voglia, però sai cos'è, più grande è, più invitati devi avere. E a poco a poco, vabbè, già ne abbiamo fatto i parecchi qua, poi c'è un tavolo grande anche lì, posizionato, e via, quelli li tolgo solo d'estate, mi ancora non l'ho tolto, ce l'ho sotto, ce l'ho, nella legnaia ce l'ho sotto. Niente, ho giunto, un attimino che esco fuori a mettere a posto quella roba. Vai, vai, Fra, non c'è problema, ci mancherebbe altro. Vai, vai. Ok, sono arrivato. Ho messo un altro, due pezzi di legna. Così almeno hai alimentato di più il fuoco. Va bene così? Certo. No, ci ho messo, ci ho messo, siccome non c'ho legna proprio, c'ho solo tavole, queste cose qua, però ci ho messo sotto un sacco di carbone rosso, e sopra la legna, in modo che il carbone me lo accenda bene. Sì, beh certo, sì. No, io uso quell'affare che si usa per accendere il carbone, quando faccio io il barbecue, metto il carbone direttamente, e quella specie di cosa, come si chiama? Diavolina, ecco. Ci metto una di quelle, ci metto e in un attimo già accende il carbone. Sì, quello sì. Però devi stare lì a soffiarlo, a fare, non è un casino. Perché così non fa tutto da solo. Sì, quello sì, beh certo, la legna prende fuoco subito, non c'è problema. E dunque il carbone molto ci mette ad accenderlo. Alla grande. Ebbene. Sì, va così. Sapete quante tonnellate di legno e di metri cubi addirittura, posso dire addirittura di metri cubi di legname, ho dato io alla gente per il fuoco, tutti i ritagli che mi avanzavano quando lavoravo, eccetera, no? C'era sempre uno che era lui praticamente il capo del ritiro rimasugli, pezzi di legno, ma anche pezzi buoni nel senso di legno duro, che sono quelli che durano di più poi, no? Tra l'altro. Almeno ti puliva la falegnameria. Sì, in quanto a quello sì, però la segatura non la pulia. Qualcuno mi veniva, qualche pavimentista magari, quando stava facendo pavimenti, voleva qualche sacco di segatura così per asciugare quando faceva i pavimenti, ma se no la segatura addirittura la portavo alla discarica. E c'era un bel periodo che pagavo due sacchetti, adesso non mi ricordo se era 5 euro quando era, ma una cosa del genere, per caricare la segatura nella discarica comunale. Ma io mi ricordo quando ero un ragazzo, stavo lavorando lì, proprio dentro l'università, che stavano togliendo, l'università c'aveva i pavimenti in legno, c'aveva prima, no? I vecchi. E stavano facendo nuovi pavimenti in cemento, mattoni, no? Dovevano fare. E stavamo smontando lì tutto quanto legname ce lo portavano via i lavoratori stesso a casa per bruciarle, perché erano buone, lì c'erano legni buoni anche. Però c'era una falegnameria dietro di via Università, che lì c'aveva uno sempre che si portava via sacchi di duccioli, come si chiama il coso, quei sacchi lì, muratori, lì, che si portava via, ma a sacchi interi. Sì, perché prima i pavimentisti usavano, e anche i muratori, usavano la segatura proprio per asciugare i pavimenti dopo che avevano piastrellato, no? Dopo che avevano pavimentato. E per cui mi serviva per quello, mi serviva. Ma ancora prima, negli anni ancora prima, allora c'era la guerra fra i panificatori, tutti i forni del pane si facevano il giro del falegname a prendere la segatura, perché allora usavano la segatura, poi hanno incominciato ad avere i forni industriali a base elettrica o addirittura a gasolio, non lo so come, e allora i panificatori non ci sono più venuti a prendere segatura, e allora a quel punto io l'ho costretto a buttarla al coso comunale, no? Alla discarica comunale. Certo, era così, purtroppo era così, però poi sono diventati un pochino esigenti troppo i sventizi, volevano solo quella fina fina e quella grossa, quella truccia non la volevano più. E allora gli batte, quando io sto facendo pulizia, prendo, mischio tutto, metto dentro la sacca e la porto alla discarica. E così facevo. Quando venite, se ce n'è ne prendete, se non ce n'è peggio per voi. E cosa dovevo fare? Esigenti, abbi ragione a leggi. O prendi tutto o non prendi niente. Purtroppo è così. Va bene, giù, dai, ti lascio che devo... pronto. E ci sentiamo. Ciao, buon pranzo, buon tutto, quando lo fai, e ci ascoltiamo le prossime. Ciao, ciao. Ciao Franco, ciao Giulio. Ciao... Ciao, ciao Natalino, ciao Franco, ci sentiamo, grazie per la chiacchierata, vai Natalino. Eia, ciao Natalino. Ciao Franco, buon tutto, buon proseguo. Ritiriamolo. Ok Natalino, pranzando stai, questa è l'ora tua, eh. Ma ancora no. Non è pronta ancora oggi. Oggi è domenica. Ah, ho capito. Oggi è domenica e c'è la fase straordinaria di cucina, dunque ci vuole più tempo, più cose, insomma, in poche parole. Ma almeno una volta era così, invece oggi possiamo dire che è sempre la stessa cosa, perché tutti i giorni è uguale alla domenica per tutti quanti ormai. Non c'è più la restrizione che c'era prima. E domani devo andare, torna al centro vaccinale, devo andare. Sto facendo un favore, devo portare una persona a farsi il vaccino, anzi due persone sono. Ah, beh certo, deve fare l'accompagnatore, certamente sì, ma quasi sì, se una persona ha bisogno di essere accompagnata già ti fanno passare, no, non c'è problema, Natale, puoi andare tranquillamente. Sì, infatti, domani mattina vado e li accompagno. Una persona va a 80 anni, dimmi tu, l'anni prenotati però non l'hanno mai già mandi. Né all'altro. Natalia, purtroppo è così, sempre quando io ho la prenotazione, adesso per mercoledì no, però precedentemente avevo fatto la prenotazione anche quella con la regione, e quella ce l'ho avuta quel tempo, perché mai chiamato mi hanno. Poi io successivamente avevo fatto la richiesta della piattaforma postale e appunto adesso ho l'appuntamento per il 26, ma quelli della regione, oh figurati se si chiamano, quelli non mi chiameranno mai, eppure ce l'ho la risposta, ce l'ho nel telefonino che sono stato registrato, che devo stare in attesa di chiamata, ma invece figurati Natalia. Anche a me è arrivata quella risposta lì, adesso mi è arrivato che è confermato l'appuntamento, capito? Io l'appuntamento con la regione non ce l'avevo, ma avevano solamente confermato la richiesta, con tanto di numero di tessera sanitaria mia che mi hanno mandato, eccetera, eccetera, però non mi hanno mai chiamato. E allora io, per non stare lì a tirare la troppa le lunghe, avevo fatto la prenotazione con le poste ed ecco che è quella che avrò, che farò il mercoledì. Sì, vabbè, intanto io che ne sa più, l'ho domandato alla dottoressa, sono andato senza appuntamento. E allora, la di Zannubi, quando mi porto la seconda dose? Fatto bene, e invece mi proprio poc'anzi Franco mi stava dicendo che è andato lui e non gliel'hanno fatto, senza l'appuntamento. E dunque ha dovuto fare anche lui adesso la prenotazione, perché non so per quale motivo gli hanno trovato la scusa che avevano pochi vaccini, e evidentemente dice magari se avanzano gliel'avrebbero anche fatta, invece no, non gliel'hanno fatto, perché lui doveva stare tutta la sera lì, doveva stare aspettando per vedere se avanzavano i vaccini. Oh, tanto vale, e ha ragion veduta, lui cosa ha fatto? Ha fatto, se n'è andato e ha fatto la prenotazione, certo che è così. E speriamo che glielo facciano a questi qui adesso. Chi lo sa, non so cosa dirti Natalia, sai questa gente alle volte come la prende anche, no? Perché loro magari hanno un numero di prenotazioni e pensano di prendere un numero di vaccini giusti per quelli prenotati. Il discorso è quello, se magari qualcuno salta la cosa, l'appuntamento, magari può darsi che glielo fanno anche a chi arriva lì senza la prenotazione, chi lo sa, da tanto. Ma speriamo di sì che glielo facciano. Perché lui ha. Per non andare a vuoto, Emmy. Perché c'è anche. Beh, certamente sì, per non andare a vuoto, anche perché con una persona di una certa età che ha necessità di essere accompagnata, insomma, dovrebbero anche essere un pochino più magnanimi loro e cercare di aiutarlo, visto e considerato che ha anche una certa età. E non è che una persona che ha bisogno di essere accompagnata può stare tutti i giorni lì, no, nella maniera più assoluta. Dovrebbero loro subito agevolarlo e farlo, perché io la penso così. Speriamo in bene, là. È certo che sì, speriamo in bene, sempre si pensa al bene, è ovvio, però sai come sai, bisogna vedere che, con quale luna si trovano questa gente, se si trovano con luna piena o con luna distorta, e chi lo sa, boh. No, magari si sto finendo di vaccini, non è manco qui fedeli, un prisura. E su giù la situazione, magari se hanno pochi vaccini, è per quello che rifiutano. Lo so Natalizio, guarda che ieri notte hanno vaccinato fino alle 11.000 addirittura dalla gente che c'era. Questa è la notizia che mi hanno dato stamattina. Ieri hanno fino alle 11 sono stati vaccinando. Lo so. Stanno vaccinando un bel. E i vaccini se non arrivano è un macello. Quello già è vero, anche quello, anche loro sono legati a certe situazioni, perché giustamente non è che possono abbondare, prendere un numero limitato di vaccini e poi magari la gente non si presenta, e questo non va bene, sprecare i vaccini pure, perché una volta che si portano lì, allora sono sprecati se non li consumano, per cui sai benissimo che devono stare in frigo, devono stare, ci vuole il frigo di una certa temperatura, non è, magari loro lì il frigo ce l'hanno, ma non sarà sicuramente adeguato a quello che può essere magari una lunga giornata di vaccinazioni, forse solo per un certo numero di ore, penso che sia così. A meno 80 devono stare i vaccini, cavolo. Infatti avranno un numero limitato di vaccini, bisogna vedere quanti frigo hanno. Sicuramente così, prendono un numero di limitato di vaccini in modo per essere sicuri di consumarli, perché sarebbe uno spreco e un danno enorme, oltretutto, oltre al fatto che magari la gente si ritrova non vaccinata, perché non è che puoi buttare i vaccini così, non ci mancherebbe altro. Anche loro hanno ragione, le regole già le sanno e le seguiranno sicuramente. E infatti poi qua la gente già sta andando a vaccinarsi, meno male. Meno male, la gente, a questo punto la gente deve capire che bisogna per forza vaccinarsi, questo è ovvio, anche se molta gente ha una certa paura, ce l'ha, un certo timore che possa avere effetti collaterali, ce l'ha, perché già lo sappiamo, con tutto quello che si è sentito, però il rischio lo devi affrontare, bisogna per forza andare e quanti disegni di statalisti, o morire in ampio o morire in droni, per cui vedi tu, allora bisogna cercare di riservarsi e soprattutto di fare quello che si dovrebbe fare. Ma questo è uno, è il parroco nostro, della parrocchia nostra, e la donna e la mamma, e mamma e figlio, capito? Speriamo che glielo facciano, perché lui sta in mezzo alla gente, questo qui, e se lo deve fare per forza. Allora già glielo fanno, se il parroco già glielo fanno, perché anche perché ha un diritto di privilegio, è così o Natalizio, sicuramente, perché essendo una persona che rimane a contatto con tante altre persone, ha diritto e glielo fanno sicuramente, no, non c'è problema per quello. bianca, mia figlia non invecchiano che è giovane, ed è andata col foglio perché siccome lei fa l'insegnante, no, anche oltre al suo lavoro che fa, fa anche l'insegnante, per cui deve viaggiare in certi paesi della Sardegna per poter fare lezioni del suo lavoro stesso, attinenti al suo stesso lavoro, e dunque ci sono diciamo così, chiamiamoli studenti, che poi non sono studenti, bensì sono persone interessate a quel relativo lavoro. E allora, avendo lei questa possibilità di insegnare, ha avuto il privilegio di essere vaccinata subito, anche se non rientrava ancora nella sua età, capito? Sì, ma speriamo in bene, che lo faccia. Lo so che c'ha delle patologie con sé. Che glielo faranno? Sì. No, glielo fanno proprio di diritto, perché chi deve avvicinare la gente, come ad esempio il prete, è chiaro che avvicina tanta gente, avvicina in chiesa, e dunque è un suo diritto, un suo sacrosanto diritto, oltre al fatto che magari ha anche una certa età, per cui ancora meglio, glielo fanno di diritto, non c'è problema. Vediamo come va, là. Vediamo che non ci sia questa carenza di vaccini, come stavi dicendo tu, perché se c'hanno i vaccini già glielo fanno, non c'è problema. Sì, che glielo fanno, Natalia, non c'è problema, no, glielo fanno, casomai è capace che lasciano indietro qualche altra persona, magari, che è meno fragile, e lo fanno a lui, questo è sicuramente scontato, perché, ripeto, è un diritto, queste persone così hanno il diritto di essere vaccinati anticipatamente, visto e considerato che vanno a contatto con altre persone. E magari un'altra persona, scelgono una persona meno fragile, se proprio non bastassero i vaccini, scelgono una persona meno fragile e a quello lo rimandano. E trovano una scusa, abbiamo finito i vaccini, ed è anche una scusa plausibile, dai, se vogliamo. Sì, infatti, la colpa non è la loro. I vaccini, li rasini a Midingo arrivi, Mimì. Non è che ne arrivano in quantità grosse. Lo so, ma purtroppo il sistema deve essere anche quello, perché noi magari alle volte ci lamentiamo, questi vaccini non arrivano mai, no, ma bisogna vedere anche com'è la situazione. Ci sono dei fattori che purtroppo sono loro obbligati a seguire per una serie di motivi, non solamente di medicina, ma anche di tempi, eccetera. Bisogna considerare tutto, bisogna considerare. Chiaramente la gente che non viene vaccinata, magari che la mandano indietro, le dicono magari venga domani o venga stasera, se sono di mattina, si lamentano. Ma bisogna vedere anche com'è la situazione. Queste persone sono lì per lavorare, non hanno nessun interesse di mandare indietro le persone. Le persone, anzi, loro le vogliono vaccinare il prima possibile. Però bisogna che ci siano anche i modi e i tempi giusti per poterlo fare, Natalia. Io già lo so, e poi c'è da considerare che c'è tutta l'Italia che si sta vaccinando, non siamo solo noi, no? Appunto, un numero così grande di persone, e chiaramente, no, noi si sa, lo sappiamo, noi andiamo e protestiamo, ma loro invece lavorano a ragion veduta, invece noi magari parliamo tante volte, parliamo anche a Vamela, proprio perché non siamo stati accontentati in quel momento, non va bene così, nella maniera più assoluta. Loro lo sanno, che il loro lavoro è quello, e sanno loro come bisogna fare, certo che sì. Va bene, Natalia, se mi stai ascoltando, dai, io ti lascio, ci sentiamo eventualmente stasera, dai, buon pranzo, sicuramente fra un po' lo farai, come lo farò anch'io, fra una mezz'oretta, per cui ci sentiamo stasera, grazie comunque della chiacchierativa, alle prossime, ciao, ci sentiamo. Giù, mi ero spostato e non ti potevo rispondere, che sono andato in cucina e mi ha chiamato mia moglie. Siamo dove stasera lì, là. Ok, ciao Natalia, stasera.